Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, questa sera parliamo di aziende low cost, dei segreti delle aziende low cost. È un libro scritto da Andrea Cinosi e Giorgio Rizzo per Franco Angeli, che è una riflessione sul mondo delle imprese, su questa realtà del low cost. Ne parliamo con Andrea Baracco. Buonasera Baracco. Buonasera a tutti i radioascoltatori. Andrea Baracco è consulente di comunicazione e vicepresidente di Asso Low Cost, che è l'associazione, ce lo spiegherà, che riunisce le aziende low cost, e ha scritto per questo libro la parte dedicata appunto alla comunicazione. Allora Baracco, innanzitutto il low cost non è solo compagnie aeree, non è solo aerei che hanno comunque cambiato il modo di vivere e il modo di viaggiare degli ultimi anni. Quando si parla di low cost si pensa subito a Ryanair o a EasyJet, per non far nomi, ma il low cost è anche qualcosa di più. Beh, il low cost direi che è presente ormai in tutte le categorie merceologiche, dalla grande distribuzione organizzata alle automobili, passando ovviamente per coloro che l'hanno lanciato per primo, come il mondo del turismo e degli aerei. Quindi direi che è un segmento di mercato che tra l'altro è in grande crescita, perché parliamo di un fatturato in Italia che nel 2013 sarà di circa 90 miliardi di euro. Ecco, un fatturato peraltro che cresce nonostante la crisi. Sì, assolutamente. Diciamo che oggi si stima che il low cost in Italia valga circa il 5,6% del PIL, e la crescita ormai da un po' di anni è stabilizzata grosso modo nel 7%, 7,5% tutti gli anni. Ecco, ma com'è cambiata l'immagine del low cost? Il low cost certamente è qualcosa che viene vista con favore perché permette di risparmiare, ma spesso viene associata a prodotti o servizi di qualità non a livello delle qualità che possono offrire le grandi marche, i grandi nomi, i grandi brand. Ecco, questa immagine di low cost in cui sì, il rapporto qualità e prezzo può essere favorevole, ma accettando magari una qualità inferiore. Ma direi che il rapporto comprende sempre anche la qualità del prodotto, del servizio che viene erogato o venduto. Quindi da questo punto di vista le aziende che operano nel low cost, e lo spieghiamo bene all'interno del libro, non partono semplicemente da un discorso di dire un abbattimento del prezzo o un risparmio sulle materie prime, ad esempio, ma si rimette in gioco tutto il sistema e tutta la filosofia e tutto il processo aziendale. Quindi il low cost, quando un'azienda decide di affrontarlo in maniera corretta, lo affronta partendo dalla progettazione del prodotto, del servizio, e applicando le regole che ci possono essere migliori per seguire questa filosofia lungo tutta quanta la parte di realizzazione del progetto, del processo. Ecco, si può dire che la strategia di un'azienda diventa quella di restare al core business, cioè di far pesare i costi effettivi e di togliere tutti quei costi che invece possono all'interno di un'azienda appesantire il costo finale, ma che non comportano poi dei riflessi immediati sulle caratteristiche del prodotto. Beh, direi assolutamente di sì. Basta pensare che cosa può fare internet, ad esempio, nel settore delle assicurazioni o nel settore delle banche. Il fatto di poter operare senza sportelli è chiaramente un risparmio che si riflette poi sui vantaggi per il cliente. Ecco, qui abbiamo già visto un altro settore in cui c'è stata una crescita molto forte nelle assicurazioni, anche grazie appunto a una pubblicità, una propaganda, una promozione molto molto forte, ma che fa leva poi sui costi effettivi. Sul fronte delle assicurazioni forse si è raggiunto anche un sensibile, significativo ribasso dei costi di queste assicurazioni se fatte attraverso i sistemi online, i sistemi elettronici. Ecco, quali sono i settori in cui c'è stata questa trasformazione più forte? Beh, direi sicuramente i settori dei servizi, partendo da assicurazioni e anche dalle banche. Non dimentichiamoci che sta accadendo un procedimento contrario. ING, che è uno degli associati di Asso Low Cost, partiva dal web, solamente col web, e solamente adesso sta aprendo alcuni sportelli, quindi qui addirittura il low cost ha fatto un procedimento inverso, è partito prima ottimizzando quello che potevano essere tutte le risorse dal punto di vista di non avere costi di struttura, però poi si è visto che forse qualche necessità c'era e quindi hanno modificato in corso la loro strategia. Direi che assolutamente possiamo pensare a tutto ciò che riguarda oggi anche il discorso dell'alimentare, il discorso del chilometro zero va sicuramente in un'ottica di low cost, perché si risparmia sul discorso dei trasporti, quindi questo è sicuramente un'altra area su cui si sta puntando molto. E poi non dimentichiamoci che c'è anche tutta l'area proprio dei trasporti stessi che presenta delle opportunità non indifferenti anche in tal senso. E vi sono anche settori che potremmo chiamare così un po' delicati, importanti, come quello della sanità. Stanno comparendo, stanno facendo il loro ingresso anche strutture, per esempio per i dentisti low cost che offrono appunto i loro servizi cercando appunto di entrare in un settore che è riservato a studi di solito privati. Ecco, il tema della sanità è affrontato in un capitolo, ecco, ma come conciliare la sanità e tra l'altro il problema della spesa sanitaria è un problema particolarmente forte, la possibilità di ridurre questa spesa mantenendo inalterato, magari anche aumentando addirittura le possibilità di efficienza e di efficacia dei servizi sanitari potrebbe essere certamente un punto di rilievo. Anche nella sanità può entrare il low cost, Andrea Baracco. Sì, assolutamente, ci sono degli esempi molto chiari che sono già strutturati per quanto riguarda sia in Lombardia sia per quanto riguarda le regioni del Friuli, del Veneto, e nascono fondamentalmente da un processo che era quello che molte persone più vicine ai paesi dell'est andavano in questi paesi per farsi curare. Ora, dove ovviamente il costo della vita è più basso, quindi logicamente si poteva spendere meno, però con un minor controllo, diciamo, sulla qualità che veniva erogata da parte del medico, e quindi ecco che nascono le prime strutture che si occupano di questo. Dov'è che fanno, come dire, leva? Sicuramente non certo sulla mancanza di professionalità da parte dei medici, che ovviamente sono tutti quanti dei medici rigorosamente iscritti agli albi professionali, eccetera, ma per quanto riguarda invece la gestione di tutti i costi dell'infrastruttura, perché se io riesco a ottimizzare tutti i costi dell'infrastruttura, compro le necessità che mi servono da un punto di vista medicale in grandi quantità anziché in quantità piccole come può fare un singolo studio, quando io ne raggruppo 5, 6 o 7, 8 professionisti, è chiaro che i prezzi diventano diversi e tutto questo si riflette su un vantaggio per il cliente. Ecco, il libro termina con uno sguardo alle prospettive del low cost in Italia. Il low cost viene definito un motore di sviluppo per l'azienda Italia. Questo anche perché rispetto a paesi, altri paesi europei, in Italia il low cost può fare ancora altra strada? Beh, direi fondamentalmente partirei da tre dati. Il primo dato è che una ricerca di mercato che abbiamo condotto l'anno scorso e che credo non abbia subito grandi modificazioni nel corso dell'ultimo anno ci dice che il 63% degli italiani ritiene che la modificazione degli stili di consumo sia duratura. Un dato che viene confermato da un altro punto della ricerca in cui si dice che il 43% degli italiani non ritiene possibile ritornare ai livelli di consumo pre-crisi. Quindi da questo punto di vista vi è completamente una modificazione dello scenario nel quale ci si sta muovendo. Allora, le aziende che saranno capaci nei differenti settori merceologici di andare a intercettare queste nuove modalità di consumo saranno sicuramente le aziende che possono avere successo, anche perché, come dicono gli amici di una società di ricerca di mercato che ha lavorato per noi, vi è un passaggio fondamentale che è da consumatore a equilibrato gestore di risorse. Ecco, questo è importante, allargando la prospettiva, e il libro lascia intravedere anche questo allargamento di prospettiva, per esempio sulla pubblica amministrazione. Lo snellimento, l'efficienza, la maggiore disponibilità del cittadino potrebbe rappresentare anche un esempio di pubblica amministrazione low cost. È solo una provocazione, Andrea Baracco? Ma non è una provocazione, noi pensiamo che oggi internet è sfruttato dalla pubblica amministrazione in una dimensione estremamente ridotta. Qualche giorno fa aveva fatto titolo sui giornali il fatto che si sarebbe annullato il fax e che si sarebbe fatto tutto tramite internet, poi mi sembra che ci sia stata una retromarcia in tal senso, quindi da questo punto di vista dobbiamo pensare che le tecnologie oggi permettono veramente di ridurre in maniera significativa dei costi che possono essere anche solo e semplicemente dei costi burocratici di carta e di certo, code e di tempo necessario per svolgere determinati compiti. Grazie Andrea Baracco, speriamo appunto di poter spendere di meno per vivere meglio, e questo è anche la filosofia di questo libro di cui abbiamo parlato con Andrea Baracco, vicepresidente di Asso Low Cost, il libro I segreti delle aziende low cost, riflessioni per il mondo delle imprese di Andrea Cinosi e Giorgio Rizzo, edito da Franco Angeli, sono 190 pagine per 25 euro. Grazie a quanti ci hanno seguito, grazie a Paolo Corleoni in regia, Laura Faggina e Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.